Focus Economia. Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti a Focus Economia, sono le 17:09 minuti e 11 secondi in questo istante. Oggi il Premier Berlusconi ha detto che l'Italia si deve svegliare da un lungo sonno sulle infrastrutture, ha annunciato l'avvio del cantiere per quanto riguarda il ponte sullo Stretto di Messina a partire da dicembre, ha detto il debito non deve frenare gli investimenti, a dicembre quindi al via il lavoro per questo ambizioso ponte sullo Stretto di Messina, ma anche oggi Bruxelles torna a ricordare a Roma che la situazione dei conti pubblici sul lungo termine in Italia è insostenibile. Questo è il termine usato dalla Commissione europea, che dice anche senza considerare eventuali incrementi della spesa per le pensioni, la situazione insomma è insostenibile. Quanto quindi, quanto margine c'è per pensare al finanziamento di infrastrutture ambiziose come il ponte sullo Stretto di Messina con lo stato dei conti pubblici che preoccupa l'Europa e non solo? E poi quali infrastrutture finanziare per prime? Quali sono le priorità? Ne parleremo con alcuni ospiti nella prima parte di questa puntata, ma ci sarà spazio ovviamente anche per la borsa. Parleremo di tecnologia, perché Intel ha annunciato i conti trimestrali, e anche di bond aziendali, ma prima le notizie di oggi dal mondo dell'economia e della finanza. L'oro, ancora record per l'oro in Asia, 1069,80 dollari all'oncia. E sui massimi anche il petrolio, l'oro nero quindi a New York ha aperto sotto i 75 dollari al barile al mercato appunto americano. Nuovo calo dei consumi petroliferi dopo il meno 8,1% di agosto. I consumi petroliferi italiani nel mese di settembre 2009 hanno fatto segnare una nuova flessione pari all'8,4%. La crisi economica fa crescere anche la fame nel mondo. Per effetto della tempesta finanziaria, i poveri fra i poveri sono cresciuti del 9% nell'anno in corso, arrivando alla vetta di 1,02 miliardi, il livello più alto dal 1970. Lo dice il rapporto pubblicato dalla FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e l'Alimentazione, e dal Programma Alimentare Mondiale. E le notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti a settembre hanno segnato un calo dell'1,5%. Il dato è migliore delle attese degli analisti. E ancora sempre dagli Stati Uniti, ad agosto le scorte aziendali sono diminuite dell'1,5% contro la stima di un meno 1% avanzata dagli economisti. JP Morgan ha annunciato gli utili del trimestre, che sono stati per il terzo trimestre, hanno superato le stime degli analisti. I profitti del colosso bancario americano si sono attestati a 3,59 miliardi di dollari, pari a 82 centesimo ad azione. Gli analisti invece prevedevano utili pari a 51 centesimo ad azione. E poi notizie che vengono dalla Francia. Crédit Agricole rimborserà 3 miliardi al governo francese presi in prestito a dicembre dello scorso anno per far fronte alla crisi. Secondo quanto annuncia il comunicato, poi Crédit Agricole venderà titoli di debito per ripagare interamente il finanziamento statale il 27 di ottobre. Timidi segnali di ripresa in Europa. Ad agosto infatti la produzione industriale è cresciuta per il quarto mese consecutivo, sia nella zona euro dello 0,9%, a trainare l'Italia con un più 7%. In Irlanda si registra un crollo del 16,7%, produzione industriale in crescita dell'1,9% in Francia, dell'1,5% in Germania, in calo del 2,7% nel Regno Unito. In Italia l'ISAE rivede al meglio le sue previsioni sull'andamento dell'economia italiana. Il PIL nel 2009, stima l'istituto, si attesterà a meno 4,7% con un miglioramento di 6 decimi di punto rispetto al meno 5,3 delle precedenti previsioni. E poi parliamo di Alitalia, ne ha parlato il Premier Silvio Berlusconi, ha detto Alitalia è sicuramente avviata verso una gestione positiva che premia il coraggio di imprenditori che hanno saputo rischiare. Sono intimamente soddisfatto di ciò per cui ci siamo battuti, e cioè del fatto che siamo riusciti a mantenere la nostra compagnia di bandiera in mani italiane. Credo che soltanto in questo modo si possa prevedere un piano di sviluppo del traffico aereo, avendo una compagnia di bandiera che si fa essa stessa fattore di richiamo con i suoi uffici in gran parte degli stati del mondo, per portare il turismo, soprattutto quel turismo che si pensa, si prevede, si ingrandirà moltissimo nei paesi orientali, in Cina, in India e nella Federazione Russa. Io credo che sia stato veramente quella volontà pervicace, direi quasi, e quelle 32 riunioni che sono state fatte e che hanno convinto 15-16 nostri coraggiosissimi imprenditori a rischiare di entrare in una sfida molto difficile, una sfida che sta per essere vinta. Ho visto da vicino con molto piacere i risultati che sono stati presentati dall'Italia nei primi giorni di ottobre, e credo che l'Italia sia sicuramente avviata verso una gestione positiva. E parliamo del nostro approfondimento sulle infrastrutture, su quali infrastrutture portare avanti in un periodo in cui l'Europa ci continua a ricordare lo stato dei nostri conti pubblici. Il ponte sullo stretto, ha detto il premier Berlusconi, inizieranno i lavori per il ponte a dicembre. Ci scrivono al 349-238-6666. Perché un progetto ambizioso? Lo aspettiamo da 100 anni. In effetti si discute, se non da 100 anni, comunque da decenni, di questa impresa, che viene considerata da alcuni un'impresa appunto troppo ambiziosa, forse che in questo momento non ci possiamo permettere. Sicuramente il governo sta cercando, e lo ha fatto anche oggi Berlusconi, di far ripartire anche il motore economico dell'Italia attraverso l'apertura di questo cantiere. Sentiamo cosa ha detto Berlusconi. Io ho il piacere di poter comunicare, forse l'ha già comunicato autorevolmente il Ministro dei Trasporti, ma che noi a dicembre e gennaio cominceremo anche la realizzazione di un'altra infrastruttura importante per una nostra regione che dobbiamo rendere italiana al 100%, che è la Sicilia, il ponte sullo stretto. Questa notte abbiamo lavorato a lungo su una infrastruttura diversa. Questo fa parte del piano delle nostre infrastrutture e dei nostri servizi di cui abbiamo bisogno, ma per esempio abbiamo dei ritardi enormi per quanto riguarda, non c'entra con la logistica, non c'entra con i trasporti, ma è un'infrastruttura che ci pesa addosso, perché dimostra che il nostro paese è ancora lontano dall'essere veramente un paese civile, è quella delle carceri. Per par condicio, ma anche per aggiungere uno spunto alla riflessione, citiamo oggi quello che dice il responsabile infrastrutture del PD Andrea Martella, che dice che l'Associazione Nazionale Costruttori, nel giorno in cui il Premier dichiara l'apertura del cantiere per il ponte sullo stretto, l'Associazione appunto dei Costruttori denuncia un taglio di 2,5 milioni di euro ai fondi per le infrastrutture. Ne parliamo di tutto questo con alcuni esperti. Il professor Marco Ponti, docente di economia dei trasporti al Politecnico di Milano. Buonasera. Buonasera a voi. E con il professor Giacomo Vaciago, docente di politica economica all'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, professor Vaciago, inizio da lei. Lei è favorevole all'inizio dei lavori per il ponte sullo stretto di Messina? Da molti anni dico che un sogno si potrebbe anche realizzare. Nei secoli passati facevamo le cattedrali, quelle vere, non quelle nel deserto, e in questo secolo potevamo pensare a una grande opera, senza sottoporla, come i miei colleghi fanno, a un'analisi costi e benefici, come con la quale probabilmente non avremmo mai fatto né il Duomo di Milano, né le piramidi, né nessun'altra grande opera di valore simbolico. Se diamo un qualche valore simbolico all'unione della Sicilia con l'Italia, beh, il ponte l'avremmo dovuto fare già da un secolo. Professor Ponti, ha sentito, mi pare che lei abbia un'opinione contraria, e ci spiega perché è contrario alla costruzione, quali criticità vede? Ma dunque, io sono d'accordo che i valori simbolici sono tra i valori, però c'è un problema di priorità e la metterei in tre modi. Il primo è l'effetto anticiclico, che è molto modesto del ponte, perché è un'operazione total intensive che occupa relativamente poca gente. Secondo è la comparazione di priorità, cioè si può costruire un'opera di valore simbolico, ma per trasparenza nella decisione democratica occorrerebbero analisi costi-benefici comparative rispetto ad altre grandi opere di grande valore simbolico, per esempio il Prejus o il Brenner o non so che, cioè mettere sul tavolo del dibattito politico questi elementi. Una terza considerazione è che il ponte funzionalmente serve poco, ma proprio poco, perché adesso non ho abbastanza tempo di spiegare i tipi di traffici che ci possono pensare su, ma i numeri sono molto molto piccoli. L'ultima considerazione riguarda il finanziamento, perché si dice lo Stato mette un miliardo e mezzo circa, gli altri lo metteranno i privati, ma questi privati sono essenzialmente l'ANAS e le Ferrovie dello Stato, che di privato sono delle SPA, ma di privato non ha proprio nulla, quindi bisogna dire almeno chiaramente chi paga, perché alla fine paga quasi tutti i contribuenti in realtà, invece si dice che pagheranno in buona parte i privati. Diamo qualche dato su questo ponte. Dovrebbe costare 6,1 miliardi di euro. È sicuramente un progetto ambizioso, almeno dal punto di vista ingegneristico. È un ponte a campata unica il più lungo del mondo, 3,3 chilometri. E secondo il piano, appunto come ricordava il professor Ponti, il 60% del finanziamento dovrebbe arrivare da capitali privati. Per ora ci sono timidi segnali in questo senso. I tempi di realizzazione previsti sono quelli di 6 anni. Professor Vaciago, lei ce lo spiegava, è favorevole anche per una questione di ruolo paradigmatico che viene assunto da alcune grandi opere in determinati momenti storici, ma in questo momento storico in cui, ce lo ricorda Bruxelles, abbiamo una difficoltà dal punto di vista della spesa pubblica, chi paga? Certamente l'operazione, proprio per il suo valore simbolico, doveva essere aperta a una serie di contributi anche volontari degli italiani in tutto il mondo. C'è un fracco di italiani che hanno fatto fortuna andandosene dall'Italia meridionale e andavano coinvolti. Come si faceva col Duomo di Milano, con le piramidi e così via. Diciamo che io ero favorevole a questa opera molti anni fa, ben prima che l'attuale capo del governo fosse a Palazzo Chigi o nei suoi altri palazzi, e quindi non è una scelta politica la mia, e tantomeno di sostegno alle decisioni spesso sbagliate di questa maggioranza. Sulle altre opere pubbliche io ho una visione molto più vicina a quella di chi ritiene che le piccole opere pubbliche utili subito sono da privilegiare, soprattutto perché hanno un alto contributo alla produttività in questa fase. Quindi diciamo che il ponte è la mia eccezione alla regola generale, non è che vado per opere faraoniche in tutto il paese. È anche del tutto anticiclica, il ponte inizierà a funzionare quando si spera saremo usciti dall'attuale crisi, e quindi ovviamente non lo propongo come manovra antirecessione. Sarei stupido se pensassi che va qualificato per i suoi contributi all'uscita dalla recessione. Lì sono altre le cose. Professore, da però leggevo che lei è favorevole anche perché crede che possa attirare l'attenzione, ma anche i capitali altrui. E gli investitori, perché siamo sempre da capo. Ancora nel dibattito sul Mezzogiorno oggi, qualcuno è convinto che il Mezzogiorno lo possiamo sviluppare noi italiani. Io resto da sempre convinto che è una parte del paese che o riusciamo a farci arrivare capitali dal resto del mondo, e parlo di investimenti anche produttivi, non solo in opere pubbliche, va da sé, o se no non riusciremo mai a sviluppare il Mezzogiorno. Oggi i paesi emergenti lo dimostrano attirando gli altrui capitali. Quando riparte l'economia mondiale fra un anno o due, avremo di nuovo la gara per avere i capitali degli altri. Noi pensiamo che riusciamo a far ripartire il Mezzogiorno coi soldi dei veneti, supponendo che ci li volessero mettere. Io credo proprio di no. Professor Ponti, quali sono allora le opere, le infrastrutture che lei considera prioritarie, quindi che potrebbero dover partire prima del ponte sullo stretto? Qui sono totalmente d'accordo col professor Vacciago, proprio anche per produttività. Cioè, le opere di grana fine che fanno migliorare il funzionamento di quello che c'è hanno una redditività economica e un contenuto occupazionale anticiclico molto più elevato di opere di questo tipo. Poi l'aspetto simbolico, come ripeto, è legittimo e una maggioranza può decidere di investire soldi lì. Io però lo farei comunque basando il dibattito politico su maggiore trasparenza dei costi e dei benefici rispetto a altri usi, senza negare affatto che ci può essere una scelta che dice no, gli aspetti funzionali non mi interessano perché legittimamente privilegio gli aspetti simbolici. Ma questo deve essere messo molto chiaramente sul tavolo coi numeri. Finora sono stati spesi più di 150 milioni di euro. Quindi rinunciare costerebbe anche dei soldi oltre alle penali? Professor... Questo è tutto da vedere sulle penali, perché su questo c'è un dibattito molto serrato. Per le linee di alta velocità, su cui si parlò di penali per rimettere in gara gli appalti, per esempio le ferrovie che erano interessate dichiararono che era molto meglio metterle in gara pagando le pedali, che non si risparmiava molto di più che non riaffidandole senza concorrenza ai produttori iniziali. Quindi non mi pronuncio, però la mia sensazione è che varrebbero di nuovo, bisogna far bene i conti, come dico, perché i privati non mettono, probabilmente metteranno davvero pochissimo, i veri privati. Ci ricorda un ascoltatore che anche per l'alta velocità i privati dovevano mettere dei soldi, poi invece se li ha accollati lo Stato italiano. Professor Vacciago? Temo di sì, e temo che sull'alta velocità sia meglio stendere un velo pietoso. Se è ancora meno utile di quel ponte per il numero di persone che la usano, ma ci avevano detto che era alta capacità e quindi ci avremmo messo su tanto di quel trasporto merci e così via, che era bene farla. Io sto ancora aspettando però. Professor Ponti, lei ci ricordava il traffico sarebbe abbastanza esiguo, sia il traffico di persone che di merci? Sì, perché se adesso ho paura che mi finisca la batteria, ma rapidamente, perché il traffico merci è di lunga distanza e viaggia per nave, costa molto meno sia allo Stato che chi fa viaggiare. Il traffico passeggeri di lunga distanza viaggia in aereo, il traffico passeggeri di breve, cioè tra le due grandi conurbazioni dello stretto, il ponte è scomodissimo perché bisogna fare 50 km in tutto e salire molto in alto e poi scendere dall'altra parte. Un traghetto veloce è molto più funzionale. Quindi i numeri saranno comunque modesti, comunque modesti. Grazie a Marco Ponti e a Giacomo Vacciago per essere stati con noi. Il dibattito è aperto. Bentornati a Focus Economia, parliamo di infrastrutture e conti pubblici. Saluto il collega del Sole 24 Ore, Dino Pesole, buonasera. Buonasera Valentina. Grazie per essere qui con noi. Ti faccio sentire agli ascoltatori un altro passo del discorso pronunciato dal Premier Silvio Berlusconi oggi a Villa Madama a proposito della realizzazione di infrastrutture in Italia. Il nostro paese si deve svegliare da un lungo sonno che l'ha portato ad avere condizioni anche di bilancio assolutamente negative ricordo che purtroppo le leggi finanziarie annuali, la ricerca del consenso dei governi del tempo del compromesso storico hanno portato dal 1980 al 1992 a una moltiplicazione per 8 del nostro debito pubblico. E questa è un'eredità con cui dobbiamo fare i conti, ma non deve essere questa eredità che ci impedisce di innovare, di togliere di mezzo tutte le difficoltà che esistono alla realizzazione delle opere e anche ad stimolare gli investimenti pubblici e privati nella direzione di ciò che è più urgente. E allora Berlusconi, avete sentito, ha detto che questa eredità, questo fardello non ci deve impedire dal portare avanti gli investimenti, infrastrutture. Lo ricordiamo, il debito pubblico italiano vale oggi 1.757 miliardi di euro, vale a dire il 115% del PIL. Nel 2010 il debito dovrebbe salire al 116% del PIL. Dino Pesole, oggi la Commissione europea ha detto che è insostenibile la situazione dei conti pubblici per l'Italia, anche per la Francia, l'Ungheria, la Polonia, il Portogallo. Insomma, ancora una volta l'Europa torna a ricordarci il peso della nostra situazione. È il peso di una situazione che è, come ricordava il presidente Berlusconi, è un accumulo di debito che è stato nel passato notevole. Peraltro occorre ricordare che il debito pubblico è aumentato di 10 punti in un anno, poiché nel 2008 eravamo attorno al 105% e quest'anno siamo al 115%. È anche ovviamente l'effetto della crisi economica che ha indotto il nostro paese, non solo il nostro paese, ad aumentare l'indebitamento per far fronte ai costi della crisi. Questo è evidente. All'interno di questo limite, che comunque è un limite pesante, io credo ci siano dei margini obiettivi per fare politiche di sviluppo. Occorre capire in che direzione il governo intenda muoversi, perché anche sulle infrastrutture questa potrebbe essere interpretata come la classica ricetta keynesiana, cioè quella di spingere sugli investimenti per fare domanda e dunque spingere l'economia. Però tutto questo ha un costo e deve essere compatibile con gli equilibri di bilancio. L'Europa ha definito appunto insostenibile la situazione dei nostri conti pubblici anche senza considerare eventuali incrementi della spesa per le pensioni. Dice la Commissione, è indispensabile che l'Italia, una volta avviata sulla strada della ripresa, proceda a una rapida azione di risanamento per garantire una stabile riduzione del suo molto alto livello di indebitamento. Di pensioni ieri aveva parlato il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi nel corso di una lezione tenuta al Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, e sentiamo cosa ha detto Draghi. Per assicurare prestazioni di importo adeguato a un numero crescente di pensionati è quindi indispensabile un aumento significativo dell'età media effettiva di pensionamento. Tale aumento potrà contribuire, se accompagnato da azioni che consentano di rendere più flessibili orari e salari dei lavoratori più anziani, a elevare il tasso di attività, come sapete noi abbiamo uno dei tassi di attività più bassi in Europa, a elevare il tasso di attività e a sostenere la crescita potenziale dell'economia. Il previsto collegamento dell'età di pensionamento all'aspettativa di vita rappresenta già un passo rilevante in questa direzione. Compatibilmente con l'equilibrio dei conti pubblici si può anche valutare lo spostamento verso la previdenza complementare su base volontaria di una quota limitata della contribuzione destinata alla previdenza pubblica, che è pari a 33 punti percentuali del salario, il valore di gran lunga più alto tra i maggiori paesi europei. Questo Mario Draghi ieri, che a dir la verità ha legato questo discorso sulle pensioni alla necessità, secondo Draghi, di una riforma anche degli ammortizzatori sociali che lasciano scoperte alcune categorie, e gli ha risposto sempre ieri il ministro del lavoro Maurizio Sacconi, ha detto le riforme sulle pensioni già fatte sono più che sufficienti per garantire la tenuta del sistema. Dino Pesole, di pensioni insomma ha parlato anche l'Europa? Sì, ha parlato all'Europa per ricordare che in effetti, diciamo, grazie a una serie di riforme delle pensioni che sono state varate, l'Italia, la posizione dell'Italia è migliorata per effetto di queste riforme, ma c'è il problema del debito pubblico di cui parlavamo prima. E sulle pensioni effettivamente, se noi guardiamo a quello che è accaduto negli ultimi 17 anni, Sicuramente il campo della previdenza è stato quello in cui si è intervenuto maggiormente, perché partiamo dalla riforma Amato del 92, arriviamo a quella Dini del 95, poi a quella Maroni del 2004, poi a quella Prodi del 2007, per finire agli ultimi provvedimenti del governo Berlusconi col decreto anticrisi. Quindi, come dire, l'attenzione dei governi c'è stata al problema dell'invecchiamento della popolazione e al costo che questo invecchiamento comporta per le finanze pubbliche. Giustamente però il governatore Draghi fa un discorso che va anche al di là, ovviamente non è compito suo quello di decidere, ma di stimolare, di porre all'attenzione di chi decide, vale a dire del governo e del Parlamento, le ricette possibili. Il problema fondamentale che sollecita Draghi con le sue riflessioni è sostanzialmente questo: per i futuri pensionati il tasso di copertura assicurato dall'attuale sistema previdenziale pubblico sarà comunque più basso a parità di età di pensionamento di quanto il sistema ha garantito finora. Dunque il ragionamento porta necessariamente a considerare la possibilità di ritoccare nuovamente l'età effettiva di pensionamento. Però, come sappiamo, questa è materia di grande sensibilità politica, oltre che materia di concertazione con le parti sociali, e dunque l'intenzione del governo mi sembra di capire sia quella di dire le riforme ci sono, per ora teniamo fermo quello che è stato fatto. Però obiettivamente, secondo me, l'aspetto relativo al potenziamento della previdenza complementare, questo andrebbe probabilmente osservato con attenzione. Draghi lo ha detto chiaramente, noi abbiamo in effetti fondi pensioni che riguardano una platea ancora molto limitata di lavoratori, poco meno di 5 milioni, e dunque sicuramente quella è una strada, cioè potenziare e quindi dare degli incentivi fiscali, ad esempio, per far sì che si possa ricorrere alle cosiddette pensioni di scorta. Ecco, questo è un po' il discorso. Tra le tante voci di spesa pubblica che si potrebbero tagliare ci sono poi quelle delle province. Sono 109, costano 17 miliardi di euro l'anno. Lo diciamo perché alla Camera sta esaminando un disegno di legge costituzionale per abolire le province, se ne parla da molto tempo, lo sapete, è abbastanza scontata però una bocciatura, perché hanno annunciato voto favorevole soltanto l'UDC e l'Italia dei Valori, contrari PDL, Lega e PD. L'ultima richiesta per l'istituzione di una nuova provincia arriva dalla Val Camonica, il capoluogo sarebbe Breno, 5.014 abitanti. Insomma, anche l'abolizione delle province potrebbe riportare in cassa un po' di soldi. Beh, consideriamo che lo Stato, stando all'ultima relazione previsionale e programmatica, spende 800 miliardi all'anno nel mare magnum della spesa pubblica. E questo aspetto relativo al funzionamento, alla ipotesi di abolizione delle province, riguarda i costi della politica sostanzialmente. E quindi probabilmente se ne parla da anni, però non c'è stata ancora una precisa volontà politica in questa direzione. Io credo che ci siano nel mare magnum, appunto, della spesa pubblica dei settori in cui si possa intervenire e da lì reperire risorse, ad esempio per abbassare la pressione fiscale sulle persone e anche sulle imprese, come chiedeva proprio ieri il presidente di Confindustria Marcegaglia. Infatti volevo arrivare a questo: nel mare magnum della spesa pubblica c'è anche la sanità, ne ha parlato oggi anche il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia al TG1, sentiamo. Noi pensiamo che alcune riforme sono già state fatte, anche nell'ultima iniziativa di governo si è migliorata la situazione, quindi credo che oggi l'attenzione vada posta molto anche sulla sanità. Noi abbiamo intere regioni nel Mezzogiorno che sono in disavanzo strutturale sulla sanità. Quindi riflettiamo sulle pensioni, ma guardiamo anche alla sanità e guardiamo in generale alla spesa pubblica improduttiva che in questo paese è ancora troppo forte. Avete sentito Emma Marcegaglia, presidente degli industriali italiani, ricordare la spesa per la sanità. Dino Pesole. Sì, nel momento in cui si ragiona sulla sanità non si può non ragionare sull'IRAP, che è l'imposta che venne istituita ormai più di 10 anni fa, è proprio per finanziare la sanità, e da più parti, da anni, è stata ed è continua a essere una delle imposte più controverse, più contestate. Tanto che lo stesso ministro dell'economia Tremonti qualche giorno fa ha ricordato che una delle ipotesi che peraltro sono già nel programma di governo, lo erano anche nel programma di governo del precedente governo Berlusconi, c'è l'abolizione dell'IRAP, imposta appunto molto contestata. Il problema qual è? Che però l'IRAP garantisce un gettito a beneficio appunto delle regioni di oltre 40 miliardi e dunque per farlo bisogna trovare delle risorse compensative. È una questione molto complessa, come si può ben intendere. Sì, oggi ne parla anche Giavazzi sul Corriere della Sera di questa imposta che le imprese si troveranno a pagare, anche se nonostante a causa della crisi alcune, ad esempio piccole e medie, non è detto insomma che quest'anno facciano utili. Sì, appunto, e nonostante non facciano utili saranno comunque costretti a pagare l'imposta, perché è un'imposta che si paga su altri valori, sul valore effettivo della produzione. Questa è un'imposta, ricordo le motivazioni che spinsero all'allora governo Prodi, il ministro Visco, a vararla, erano motivazioni sostanzialmente di semplificazione, perché l'IRAP sostituì ben 7 tra contributi e tributi preesistenti, tra cui la vecchia e vituperata tassa sulla salute, nonché i contributi sanitari. L'intenzione, quella di semplificare e unire tutto in un tributo, era sicuramente apprezzabile, però poi nel tempo, con la concreta applicazione di questo tributo, si sono osservate molte zone di criticità. Non a caso l'IRAP è stata sottoposta anche a numerosi giudizi, quindi sicuramente è un'imposta in cui, sulla quale occorre intervenire, ad esempio provando ad accelerare la parte di deducibilità, però appunto sono tutte operazioni complesse che costano, che hanno effetti sui conti pubblici, e abbiamo visto con la situazione di un deficit italiano che quest'anno va al 5%, il debito appunto che è al 115, i margini sono molto ristretti. Grazie a Dino Pesole, collega del Sole 24 Ore. Bentornati a Focus Economia, e ora parliamo di mercati finanziari. I conti trimestrali di JP Morgan, la trimestrale positiva, un utile a 3,59 miliardi, hanno dato fiato ai listini che hanno chiuso positivi in Europa. Il FTSE All Share a più 2,03%, il FTSE MIB a più 1,75%, bene anche le altre piazze in Europa e anche a Wall Street. Il Dow Jones in questo istante guadagna l'1,12%, il Nasdaq l'1,19%, ovviamente bene i bancari. È così, Guido Maurino, collega di Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera innanzitutto. Buonasera, sì, è così come dicevi tu, insomma sono questi conti trimestrali arrivati dagli Stati Uniti che hanno contribuito a rendere positiva la giornata anche per le borse europee. Su tutti svetta Pirelli C, almeno a Piazza Affari, che è sostenuta anche da un report di Morgan Stanley che ha avviato la copertura con un prezzo obiettivo di 0,45 euro, oggi ha fatto 0,4225, va bene soprattutto i bancari dopo i conti di JP Morgan. Banco Popolare ha guadagnato il 3,53, la BPM, la Banca Popolare di Milano, il 3,87%, e bene hanno fatto anche Mediobanca, Intesa San Paolo e Unicredit, tutte con rialzi superiori al 2%. Forse Monte dei Paschi un po' più debole, più 0,63? Sì, Monte dei Paschi è stata un po' più debole, è l'unica, mentre tutte, anche UbiBanca più 1,12, però insomma complessivamente possiamo dire che è una buona giornata per i titoli bancari. A2A, c'è stato un report favorevole di Morgan Stanley, quindi il titolo ha beneficiato, più 3,07? Sì, la banca d'affari infatti ha rivisto al rialzo la raccomandazione sulla multi-utility a overweight rispetto al precedente equal weight, e inoltre ha anche alzato il prezzo obiettivo da 1,7 a 1,8 euro, perché secondo gli analisti sostanzialmente A2A ha buona parte della sua attività in attività regolamentate e una scarsa esposizione al settore gas, che dovrebbe consentire di sostenere gli utili nonostante le difficili condizioni di mercato. Tra poco parleremo di Intel, questa società americana che ha dato i conti nella notte, conti positivi, sembra che ne abbia beneficiato anche ST Microelectronics. Sì, ST Microelectronics, la società italo-francese, ha guadagnato il 2,1% e soprattutto in avvio, visto che i conti di Intel sono arrivati nella notte, è stato a lungo il titolo migliore di Piazza Affari in mattinata. Diciamo che i conti di Intel fanno ben sperare anche per le altre società del settore e quindi insomma il titolo se ne avvantaggia. Per quanto riguarda i petroliferi, beh, con un petrolio intorno ai $75 ci sono stati degli acquisti. Sì, acquisti che hanno riguardato in particolare Tenaris, che ha guadagnato il 2,58%, ma anche Eni, che ha chiuso in rialzo del 2,47%. Va anche ricordato che fra l'altro ieri Eni si è aggiudicata lo sfruttamento di un giacimento in Iraq e questo è comunque una notizia che va ulteriormente a sostenere il titolo. Invece vendite su Gemina. Sì, su Gemina si continua a discutere di un possibile aumento di capitale per sostenere i piani di sviluppo della controllata aeroporti di Roma. Anche oggi Gilberto Benetton, presidente di Edizione, primo azionista di Gemina, ha in qualche modo confermato che c'è una disponibilità a sottoscrivere un aumento di capitale per una cifra anche superiore ai 500 milioni di euro. Questa notizia ovviamente ad un effetto dilutivo sugli azionisti attuali va a deprimere il titolo, la società ha precisato che non ha ancora preso una decisione formale, comunque insomma gli analisti ormai scommettono su questo aumento di capitale, il titolo è stato penalizzato cedendo il 4,62%. Tra l'altro oggi a Roma si è parlato proprio degli aeroporti di Roma, i piani di sviluppo e investimento dei due principali gestori aeroportuali, SEA Aeroporti di Milano e ADR Aeroporti di Roma, presentati questa mattina, confermano l'indicazione di un investimento complessivo di 5 miliardi entro il 2020 e indicano che si raggiungerà quota quasi 14 miliardi entro il 2040. Il nuovo terminal centrale tra le due piste dell'aeroporto di Malpensa avrà una capacità di 70 milioni di passeggeri l'anno, è tra le infrastrutture del piano di sviluppo presentato all'ENA, che è il governo, dalla società di gestione aeroportuale SEA. E allora sentiamo proprio il presidente della SEA, Aldo Bonomi, in conferenza stampa. Entro il 2010, in particolare il nuovo raccordo sud entro dicembre di quest'anno, è un raccordo tra le due piste esistenti capace di ricevere aerei anche di nuova generazione quali gli Airbus 380. Entro il giugno 2010 la realizzazione di una grande struttura ricettiva di oltre 50.000 metri quadri con ampi spazi congressuali ed espositivi. Entro il dicembre 2010 l'ampliamento e il completamento del Terminal 1 di Malpensa, che porterà la capacità dello stesso terminal ad oltre 30 milioni di passeggeri con nuovi 15 pontili d'imbarco e nuovi 18 gates. Entro il 2011 noi ci impegniamo a ristrutturare completamente l'attuale Terminal 2 con servizi ed accessi differenziati rispetto al Terminal 1 e dedicato esclusivamente ai vettori low cost. Entro il 2013 un importante ampliamento dell'attuale Cargo City con la realizzazione di 13 nuovi hangar per una superficie complessiva di 200.000 metri quadrati. L'aeroporto sarà in grado di gestire sino a 2 milioni di tonnellate di merce ogni anno. Entro il dicembre 2014, proprio perché sia operativa durante l'Expo a Milano, la realizzazione di una nuova infrastruttura di volo, la terza pista di 2.440 metri lineari, che consentirà di servire un traffico di 100 movimenti aerei ogni ora. Allora, torniamo con Guido Maurino, collega del radio Corriere del Sole 24 Ore. Ti volevo chiedere, Guido, di Tiscali, non solo perché molti ascoltatori ci chiedono com'è andata oggi questa azione, ma anche perché è protagonista di un rally in questi giorni. Sì, anche oggi ha proseguito questo rally perché insomma i titoli hanno guadagnato il 75% anche oggi. rimane come al solito il solito discorso che abbiamo fatto in questi giorni, si tratta di valori completamente disallineati rispetto al valore dei diritti sull'aumento di capitale. Fra l'altro anche i diritti oggi hanno guadagnato oltre il 20%, bisogna tenere conto che appunto il valore teorico dell'azione, facendo tutti i calcoli post aumento di capitale eccetera, è di 0,184 euro, quindi insomma anche oggi predomina la speculazione sul titolo. Per chiudere velocemente, Mediaset. Sì, Mediaset oggi si è diciamo mossa bene, ci sono diverse cose che oggi sono andate a impattare sul titolo, visto che ci sono state delle dichiarazioni che da un lato non hanno escluso un interesse per attività in Spagna, dall'altra parte invece hanno escluso quello che alcuni operatori pensavano rispetto a un possibile cambiamento nella politica dei dividendi. Inoltre Confalonieri sempre oggi ha anche ribadito quanto più o meno era stato anticipato nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore sull'ipotesi di bond da parte della società. Confalonieri ha detto infatti che l'ipotesi bond è sul tavolo del nostro CFO, quindi del nostro direttore finanziario. E quindi un'ipotesi allo studio. Un'ipotesi allo studio. Grazie a Guido Maurino di Radio Corriere Sole 24 Ore. Le 18:08 minuti e 30 secondi, bentornati a Focus Economia, ora le notizie di questa giornata economico-finanziaria. Oro ancora record in Asia, 1069,80 dollari all'oncia. E anche il petrolio intorno ai suoi massimi, l'aggiornamento vuole il petrolio a 74,82 dollari al barile, aveva aperto a 74,95. Per quanto riguarda i consumi petroliferi, nuovo calo dei consumi a settembre dopo il meno 8,1% di agosto. I consumi petroliferi italiani nel mese di settembre hanno fatto segnare una nuova flessione pari all'8,4%. E per la crisi soffrono i paesi ricchi, ma soprattutto soffrono i paesi poveri, gli affamati. I poveri tra i poveri sono cresciuti del 9% nell'anno in corso, arrivando alla vetta di 1,02 miliardi, il livello più alto dal 1970, lo dice un rapporto pubblicato dalla FAO e dal Programma Alimentare Mondiale. Le notizie che arrivano dagli Stati Uniti, le vendite al dettaglio sono state in calo a settembre dell'1,5%, per quanto riguarda le scorte aziendali sono diminuite dell'1,5% contro la stima di un 1% sempre ad agosto. E sono state annunciate alcune trimestrali nella notte negli Stati Uniti, tra cui quella di Intel, di cui parleremo tra poco, e anche di JP Morgan. È andata molto bene la trimestrale del terzo trimestre di JP Morgan, ha superato le stime degli analisti, i profitti del colosso bancario americano si sono attestati a 3,59 miliardi di dollari, pari a 82 centesimi, gli analisti prevedevano 51 centesimi ad azione. Credit Agricole rimborserà 3 miliardi al governo francese che sono stati presi in prestito a dicembre dello scorso anno per far meglio fronte alla crisi. E poi per quanto riguarda la produzione industriale in Europa, in agosto si registra un più 0,9%, più 7% in Italia, in Irlanda un crollo del 17,7% e poi in crescita dell'1,9% la Francia, dell'1,5% in Germania, in calo del 2,6% il Regno Unito. I conti pubblici, la situazione dei conti pubblici sul lungo termine in Italia e anche in Francia, Ungheria, Polonia, Portogallo è insostenibile, anche senza considerare eventuali incrementi della spesa per le pensioni. È quanto rileva la Commissione europea in una comunicazione sulla sostenibilità dei conti pubblici approvata oggi e diffusa dalle agenzie. Ma proprio pochi istanti fa è stata diffusa dalle agenzie una dichiarazione del ministro dell'economia Giulio Tremonti. Leggo lanci di agenzia che dicono che l'Italia ci sono conti a rischio, dice il ministro. Leggendo il rapporto ci si rende conto che è un tipo di informazione già acquisita assolutamente a medio rischio. Questo ha commentato Giulio Tremonti. L'impatto può essere deleterio di questo tipo di informazione, ha aggiunto il ministro. Credo che un eccesso di informazione sia appunto deleterio. E poi, per quanto riguarda i dati sull'Italia, l'ISAE ha rivisto al meglio le sue previsioni sull'andamento dell'economia italiana. Il PIL nel 2009, stima l'istituto, si attesterà a meno 4,7% con un miglioramento di 6 decimi di punto rispetto al meno 5,7% delle precedenti previsioni. E ancora, per quanto riguarda quello di cui abbiamo parlato nella prima parte della puntata, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha parlato delle infrastrutture oggi e in particolare dei lavori per il ponte sullo stretto di Messina, che ha detto inizieranno a dicembre. Io ho il piacere di poter comunicare, forse l'ha già comunicato autorevolmente il Ministro dei Trasporti, ma che noi a dicembre e gennaio cominceremo anche la realizzazione di un'altra infrastruttura importante per una nostra regione che dobbiamo rendere italiana al 100%, che è la Sicilia, il ponte sullo stretto. Questa notte abbiamo lavorato a lungo su una infrastruttura diversa. Questo fa parte del piano delle nostre infrastrutture e dei nostri servizi di cui abbiamo bisogno, ma per esempio abbiamo dei ritardi enormi per quanto riguarda, non c'entra con la logistica, non c'entra con i trasporti, ma è un'infrastruttura che ci pesa addosso, perché dimostra che il nostro paese è ancora lontano dall'essere veramente un paese civile, è quella delle carceri. Per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina entro il 2010 parte il cantiere principale, lo ha detto anche Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina e commissario per la realizzazione dell'opera, e lo ha detto a margine della presentazione dei piani di sviluppo di Aeroporti di Roma e SEA, per la quale il presidente del Consiglio Berlusconi ha parlato, appunto, come avete sentito, anche del ponte sullo stretto. Ma ora parliamo di tecnologia, lo facciamo tra poco parlandovi dei conti di Intel. Torniamo in studio per parlare con voi di tecnologie, per parlare anche con l'amministratore delegato di Intel Italia e Svizzera, l'ingegner Dario Bucci. Buona serata. Buona serata a voi. Parliamo con lei anche perché nella notte Intel, che lo ricordiamo è il primo produttore al mondo di chip, controlla circa l'80% del mercato dei chip per il personal computer, ha annunciato alcuni risultati per il terzo trimestre 2009, dati in positivo, è così, ingegnere? Ah, direi che abbiamo fatto l'annuncio di una finanziaria che ha stupito anche gli analisti. Siamo riusciti a chiudere a un risultato superiore a quello che avevamo già ritoccato verso l'alto alla fine di agosto, quindi un fatturato di 9,4 miliardi di dollari e con un margine del 58%, che, ripeto, è un dato estremamente positivo considerando che questo è un anno complesso e quindi è anche un buon segnale per una ripresa generale. Sì, questo è senz'altro un anno complesso. Come andrà il quarto trimestre? Beh, noi abbiamo proiettato una stima nell'intorno dei 10,1 miliardi di dollari. Questo porrebbe a una circa crescita intorno all'8%, che è una crescita abbastanza consueta in stagionalità. Il messaggio è duplice: da una parte ritrovata stagionalità, quindi anche ritrovate sicurezze e certezze in una situazione che ha visto per molti mesi invece incertezze sul futuro. Dall'altra parte, questa stagionalità è una stagionalità che si basa su un dato che è comunque più basso di quello dello scorso anno per il terzo trimestre. Sarà più alto del scorso anno nel quarto trimestre se viene confermato, però siamo ancora in crescita, ci sono ancora spazi di miglioramento, ovviamente la crisi è tutt'altro che finita. Voi mi pare di capire, pensate di trarre beneficio in particolare dalla ripresa del mercato dei computer, ma anche dal lancio di questo sistema operativo Microsoft Windows 7? Ma il dato fondamentalmente positivo viene dal mondo del consumer, dal fatto che gli utilizzatori vedono il personal computer comunque come qualcosa di imprescindibile anche in situazione di Situazione di crisi? Esattamente, anche perché il computer è diventato qualcosa di veramente personale, cioè che ognuno non vuole condividere con qualcun altro e la gente vuole essere online. e quindi questo è il driver fondamentale, lo vediamo in tutto il mondo, anche in Italia, le vendite che hanno trascinato il risultato sono le vendite del comparto dei consumatori, dei notebook e dei netbook, di questi oggetti portatili. Questo è un trend che abbiamo già visto da diversi mesi, su questo si installerà anche l'introduzione di Windows 7, però ripeto non lo modificherà drasticamente, questo trend è già presente oggi. Mi pare di capire invece che, come diceva, c'è ottimismo sul retail, sulla possibilità che le persone insomma cambino il computer. Invece avete delle previsioni un po' più pessimiste forse sul fronte delle piccole e medie imprese che forse più lontane dalla ripresa non stanno acquistando. Questo potrebbe essere anche un segnale insomma della difficoltà delle piccole e medie imprese. Beh, questo è un dato soprattutto italiano, però condivisibile. Ma ce lo conferma, voglio dire, che sono le piccole e medie imprese. Forse è il settore che sta ripartendo con più lentezza nella sostituzione dei computer e negli investimenti in nuovi progetti. Vediamo dei segnali già interessanti e positivi in ambito server sulle grosse aziende, dove vediamo dei progetti che sono ripresi dopo quasi un anno di astinenza, direi che sono dei dati già confortanti. La piccola e media impresa deve arrivarci e probabilmente ci arriverà nei prossimi mesi. La grande impresa invece? La grande impresa dà dei segnali interessanti soprattutto sul lato server, ci sono nuovi progetti e chiaramente un driver è molto forte, è il concetto di virtualizzazione, cioè il consolidamento di più applicazioni su un numero inferiore di server, quindi si risparmia, e questo grazie anche a una tecnologia che abbiamo portato noi, i nuovi processori Xeon consentono di eliminare praticamente 8 di 9 server e avere lo stesso tipo di applicazione con dei risparmi anche di energia pari all'80%, quindi è un messaggio forte per le aziende che hanno un grosso numero di server. E questo sta succedendo. Nelle piccole e medie imprese il messaggio arriva forse meno urgente, e quello che manca anche nella grossa impresa è un po' la sostituzione invece dei terminali, dei personal computer. Server stanno già avvenendo, per il personal computer c'è un po' un consenso tra vari analisti che questo succederà l'anno prossimo. Avete delle forti aspettative per quanto riguarda, immagino, le vendite natalizie? Ma i segnali sono confortanti, discutendo con i retailers italiani tutti sono abbastanza concordi nel vedere un Natale positivo, un Natale all'insegna comunque del notebook e del netbook come regalo, insieme a altri oggetti abbastanza di moda come i TV dagli schermi piatti. E direi che questo ci fa ben presagire una stagione natalizia positiva per il consumer, decisamente. Grazie quindi all'amministratore delegato di Intel Italia e Svizzera, l'ingegner Dario Bucci, per essere stato con noi. Adesso parliamo di bond e di banche di credito. Ne parliamo perché c'è un rapporto di Dealogic che dice che le aziende di tutto il mondo nei primi tre trimestri del 2009 hanno preferito optare all'emissione obbligazionaria per finanziare le proprie attività economiche anziché ricorrere all'erogazione di prestiti da parte di banche e società creditizie. E questo accade per la prima volta dal 1995, quindi un sorpasso delle obbligazioni, ovvero da quando sono iniziate dal 95 le rilevazioni comparate tra i due mercati. Abbiamo in collegamento per parlarne il collega del Sole 24 Ore, Moria Longo, buonasera. Buonasera a voi. Allora Moria, questo sorpasso si spiega in parte con la liquidità che c'è in giro, il denaro costa molto poco, ha a che fare anche con la propensione al credito o meno delle banche? Sì, sono due facce della stessa medaglia e entrambi sono i due elementi che hanno favorito questo sorpasso del mercato obbligazionario rispetto al credito bancario. Il motivo principale secondo me è questo ammontare di liquidità che le banche centrali hanno immesso nel mercato, un ammontare senza precedenti, non esistono statistiche del passato che siano paragonabili con i dati attuali. Questa enorme quantità di denaro a costo quasi zero, a costo molto basso, visto che i tassi di interesse sono ai minimi storici, è entrata nel sistema bancario e nel sistema finanziario. Il problema è che le banche hanno preferito in questo momento usare questa montare di liquidità enorme per investire sui mercati piuttosto che per prestare soldi alle imprese. Quindi questo è il motivo per cui, mentre il credito all'impresa sta calando, perché le banche si sono fatte oggi più prudenti rispetto a un tempo a erogare credito alle imprese, contemporaneamente tutti i soldi immessi dalle banche centrali sul mercato si sta riversando sui mercati finanziari, ed è per questo che dal marzo oggi le borse hanno guadagnato più del 50% sia in Europa che in America. È per questo, per esempio, che i titoli di Stato, che di solito si muovono in controtendenza rispetto alle borse, questa volta sono magicamente allineate, le borse anche loro stanno guadagnando tantissimo, tant'è vero che i rendimenti sono ai minimi storici. È per questo che sui corporate bond, cioè le emissioni obbligazionarie emesse dalle aziende, c'è una domanda senza precedenti. Io adesso stavo calcolando, in Italia quest'anno sono stati emessi dalle aziende italiane obbligazioni per 26 miliardi e hanno raccolto dagli investitori europei una domanda per 101 miliardi, quindi 4 volte tanto in media, e questa è una cosa incredibile che non si era mai verificata, una domanda così massiccia per qualunque tipo di titolo, che sia azionario, che sia obbligazionario, che sia di qualunque, sulle materie prime, tant'è vero che l'oro è ai massimi storici. Infatti te lo stavo dicendo, l'oro viene comprato, le borse vanno molto bene, ieri lo ricordava Sebastiano Barisoni, rialzi intorno al 20%, al 12% per l'America. E quindi borsa bene, oro bene, materie prime bene, corporate bond bene, anche i bot, nonostante il rendimento, vanno bene. C'è molta liquidità in giro, ma sono segnali di ripresa? Sì, i segnali di ripresa economica indubbiamente ci sono. Il problema è capire quanto questa ripresa economica sia vera, nel senso che è causata dalla domanda effettiva dei consumatori che vogliono comprare qualcosa di nuovo, o quanto questa ripresa economica sia a sua volta drogata da questa quantità di liquidità che è veramente abnorme sul mercato. Perché al mio avviso, allo stato attuale, le banche centrali, per tirarci fuori da una crisi che a marzo sembrava irreversibile, irrevocabile, hanno iniettato tutta questa quantità di liquidità sul mercato. Questo ha sì ritirato su le borse, i bond e tutto, questo sta ricreando ricchezza, perché ovviamente i risparmiatori, gli investitori, i fondi che hanno investito in azioni oggi non perdono più come perdevano a marzo. Questo sta ricreando una ricchezza e quindi sta rifacendo ripartire l'economia insieme agli stimoli diretti che i governi hanno dato all'economia. Però bisogna vedere se questa ripartenza è semplicemente sostenuta da questa droga, da questo doping, chiamiamolo come vogliamo, o è una ripresa che poi sarà sostenibile nel lungo termine. Questo è il vero punto interrogativo a cui nessuno per ora è in grado di dare una risposta. Già la parola doping fa un po' paura. Per dare un'idea dei volumi, insomma, negli Stati Uniti dal 1 gennaio le società non finanziarie hanno raccolto sui mercati obbligazionari 449 miliardi di dollari e 360 miliardi in quello dei prestiti. In Europa il divario è ancora più ampio, ovvero 504 per quanto riguarda il mercato obbligazionario, 315 per quanto riguarda i prestiti. Leggevo sempre dal rapporto Dealogic che invece in Asia e Pacifico è l'inverso. Sì, ci sono meccanismi diversi, per dire, è noto per esempio che la Cina può essere un po' al contraltare rispetto agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono sempre stati il posto dei grandi consumi, dei bassi risparmi, la Cina dei grandi risparmi e dei bassi consumi, e la Cina ha finanziato sempre il debito pubblico americano. Quindi l'Asia è un paese, una parte del mondo un po' diversa. Per esempio abbiamo visto l'altro giorno, non in Asia ma comunque in un altro continente, che l'Australia ha alzato i tassi di interesse, la banca centrale australiana. Questo dimostra che da quella parte del mondo l'economia si sta muovendo effettivamente in un modo un po' diverso. Il problema è soprattutto gli Stati Uniti, che sono quelli che hanno da sempre trainato l'economia mondiale. Grazie. E per ora ancora non si sa. Grazie Moria Longo, collega del Sole 24 Ore, grazie anche in redazione a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi, in regia Pietro Lacorte, da Valentina Furlanetto è tutto. Focus Economia torna domani alle 17. Buona serata.